Dire Straits di Money for Nothing. Tempo di concerti, tempo di Tour de Force. Tour de Force. Allora, cominciamo con la Rock FM All Stars Band. Che combinazione mi capita come prima segnalazione di questo Tour de Force di oggi? Parliamo della band aziendale di Rock FM con il Farewell Tour venerdì 9 maggio in Piazza Liberty a Milano, in occasione sul palco esterno del Telefilm Festival. Il 24 di maggio invece all'Area Jens di Pontedera in provincia di Pisa. Parliamo dell'Evolution Festival che si terrà a Milano all'Idroscalo l'11 di luglio con Cavalera Conspiracy, Sonata Artica, Dark Tranquility, Evergrey, Corpi Clani, Sadis, Dark Lunacy, Logicist il 12 di luglio, con In Flames, Opeth, Gamma Ray, Death Angel, Pain of Salvation, November, Necrodeath e Idols Are Dead. Passiamo ad altre segnalazioni, come quella ad esempio che riguarda i Deep Purple, che saranno il 12 di luglio a Pistoia in Piazza del Duomo al Pistoia Blues Festival, il 13 di luglio a Torino al Colonia Sonora, il 15 e il 16 di luglio al Teatro Smeraldo di Milano, il 12 di luglio a Verona al Castello di Villafranca. Vediamo altre segnalazioni, come quella che mi riguarda da vicino, con i Rock Pit, tributo agli anni 90. Saremo infatti il 6 di giugno alla Festa della Birra di San Stefano a Macerata, comune di Cascina in provincia di Pisa, tra l'altro possibilità di edocena, quindi se arrivate alle 20 si fa una cena tutti assieme. Comunque, maggiori contatti su rockfamily.it. I Metallica saranno il 22 di luglio all'Arena Parco Nord di Bologna, Gods of Metal a Bologna, all'Arena Parco Nord, il 27 giugno con Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Rose Tattoo, Apocalyptica, Airborne, Lauren Harris e King Crow. Il 28 di giugno con Slayer, Carcass, Meshuggah, Testament, At the Gates, il 29 di giugno con Judas Priest, Ice Earth, Ing Malmsteen, Morbid Angel, Obituary, Enslaved, Infernal Poetry e Nightmare. Rage Against the Machine, unica data italiana, 14 giugno a Modena allo Stadio Braglia. I Pancreas saranno, come noto, il 10 di aprile a Firenze alla Flog, con a seguire il DJ set di Ariel e di Max Derio di Rock FM. I Rage Against You invece tributo ai Rage Against the Machine, il 16 di maggio al Flare Up Pub di Sori in provincia di Genova, il 17 di maggio a Lugnano di Vico Pisano in provincia di Pisa al Music Street Pub. I Deus, per un'unica data italiana, saranno questa sera ai Magazzini Generali di Milano. Parliamo anche della Night for the Deaf, che si terrà al Conchetta di Milano. Questa sera ci saranno gli Zengis Khan direttamente da San Francisco, e special guest gli El Tool. Passiamo al tributo ai Rush, gli XYZ, che saranno il 24 di maggio al Fronte del Porto a Genova. Passiamo anche a Buddy Guy, il 1 di luglio a Trezzo sull'Adda in provincia di Milano al Live Club. Veniamo a una segnalazione che riguarda il nostro Fabio Treves con la sua Treves Blues Band. Il 31 di maggio a Paderno Dugnano in provincia di Milano all'Anfiteatro Parco Lago Nord. Vediamo altre segnalazioni, come quelle ad esempio che riguardano i Donkeys Forever, che saranno il 9 di maggio a Milano al Dixieland. Abbiamo parlato dell'Heineken Jamming Festival, ripetiamo, venerdì 20 di giugno con Iggy and the Stooges, Queens of the Stone Age, Sex Pistols e Linkin Park, il 21 di giugno con Madmata, Mab, Marlene Kunz e Vasco Rossi, il 22 di giugno con Counting Crows, Baustelle, Alanis Morissette e Police. Chiudiamo con la segnalazione dei Whitesnake, che insieme agli Europe e Tiger Tales saranno il 23 di luglio a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova in Villa Contarini. Il Tour de Force torna domani alle 10.30 con Marco Garavelli. Tra poco ancora rock and roll e ancora i vostri messaggi, sempre qui da Rock FM. Rock FM. Your brother, your sister, and your mama too. We're about to go down, and you know just what to do. With your hands in the air like you don't care. Glide by the people as they start to look and stare. Do your dance, do your dance, do your dance. Quick, oh mama, come on baby, tell me what the word, oh word up. Everybody say, questo è Jack Wild from Black Label Society. Il grande Jack Wild con i suoi Black Label Society. Questa era Stone and Drunk, qui da Rock FM. La voce è quella di Edo Rossi. Vi ricordo ancora i contatti: edo@rockfamily.it oppure 335 100 77 77, il numero SMS. Allora, ringrazio Peter in the Shadow of the Shadow, che ovviamente mi farà molto piacere vedere domani, colui che lavorò un po' in redazione per qualche mese all'interno di questo programma, non sei mai stato dimenticato, sappilo Peter, che giustamente mi faceva notare che in realtà ho detto una baggianata prima quando mi riferivo al chitarrista di Piero Pelù, che fosse Saverio Lanza. Buon Pietro giustamente mi fa notare, come spesso faceva anche quando era qua in onda, che non si tratta più di lui, ma il chitarrista che ha suonato nel nuovo disco di Piero Pelù si chiama Davide Ferrario, e pare che dal vivo non avrà lui, ma ne avrà un altro ancora. Grazie Peter per la tua precisazione. Poi vado a salutare altra gente che scrive via SMS. Allora, un saluto a Fefo, grandissimo Fefo, ancora un saluto al Fanello, naturalmente un saluto anche ad Enrico, che dice: mi raccomando, mettete Walk la serata della Flog alla Flog. Ma naturalmente i colleghi penso che non mancheranno di trasmettere un grande classico delle serate da ballo dei Pantera. Poi un saluto anche a Frama di Faenza, che scrive un sacco di belle cose. Ho avuto l'onore di vedere la Rock FM Stars Band a Russi, è un grande DJ, un grandissimo chitarrista, mamma mia, grazie per tutti questi bei complimenti, grazie davvero. Poi vediamo un po', c'è chi scrive: aveva ragione Oscar Wilde a dire che gli uomini conoscono il prezzo di tutte le cose ma ne ignorano il valore. Se conoscessi il vero valore di questa radio, la si farebbe continuare a vivere al di là di ogni vile interesse economico. Togliete la mano dal portafoglio e mettetela sul cuore, voi che la chiudete. Grazie per questo messaggio. Poi c'è 16 invece che mi chiede come si chiama il posto dove suoneranno i Rockpit e dove ci sarà la Edocena il 6 di giugno. Si chiama Santo Stefano a Macerata ed è all'interno del comune di Cascina, in provincia di Pisa. Credo che sia anche piuttosto semplice da raggiungere. Comunque anche di questo si sta già parlando su rockfamily.it, quindi se vi interessa scusate, andate pure sul sito a prendere informazioni, se no naturalmente c'è sempre la mia email, o se no che ne so, fate quello che accidenti vi pare, fateci sapere qualcosa. Un saluto e un abbraccio naturalmente anche a Colin. E invece un saluto a come ti chiami? Aspetta un attimo. Allora, dunque, Lux versus una cosa del genere. Ma non ti sei ancora stufato/stufata di mandare dei messaggi incomprensibili nei quali non si capisce che cosa dici e nei quali non si capisce cosa vuoi e che ci devi stressare a sto modo? Non ce n'abbiamo voglia, non è il momento di rompere le palle a sto modo, ok? Per piacere, te l'abbiamo già detto, facci sto piacere che siamo qua in onda, abbiamo altro a cui pensare, per piacere, non è il caso di avere ste rotture di palle, grazie. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more. Mamma, Michael Kiske in questa I Want Out. Infatti vedo che lo avete apprezzato non poco, Più d'altro credo che abbia pubblicato, stia per pubblicare una raccolta risonata di tutti i suoi grandi successi. Ascoltavo Hard and Heavy con il grande Garabelli l'altra sera e lui annunciava che appunto ho addirittura ascoltato We Got the Right, canzone tra l'altro contenuta all'interno di questo disco degli Halloween, Keeper of the Seven Keys volume 2, rifatta, risonata, insomma in una versione molto interessante. Quindi un saluto ad Ale che dice in queste settimane, anche se scrivo un po' meno a causa dell'esame, continui comunque sempre tutti i giorni a essere il mio sottofondo. Grazie Ale. Un abbraccio. Germano da Firenze dice: miei condomini, scusate, ma questi sono gli Halloween ed il volume dello stereo è arrivato a fine corsa, solo 2 minuti e lo abbasso. Grazie a Rock FM anche da parte dei vicini. Grazie Germano. Un saluto, caro Livorno, ormai sono cotto. Lore da Livorno chiede cosa c'è a Santo Stefano a Macerata, il concerto della mia band Rock Pit, la mia band tributo agli anni 90, il 6 di giugno. Quindi se volete ci vediamo lì a partire dalle 20, ceniamo assieme, poi noi facciamo il concerto e voi se volete vi godete il concerto, se no vi mandate a quel paese. Poi Tocchi da Firenze dice: io proporrei di usare l'ugola di Kiske per scoperchiare l'ignoranza di chi vuole farci perdere la nostra radio. Grazie davvero. E Fefo dice: che voce Kiske, sto urlando come un pazzo, anche se un monsignore come me non dovrebbe farlo, ma quando c'è voce vo, a chi lo dici? Vi lascio con Eclettica, con il grande Giulio Caperdoni. Domani ci sentiamo così in modo virtuale, visto e considerato che sarò impegnato nel soundcheck con la Rock FM Monsters Band. Ci vediamo quindi domani di persona in Piazza Liberty a Milano, per intenderci una piccola piazzetta tra San Babila e il Duomo, con il concerto della Rock FM All Stars Band a partire dalle 21. Un abbraccio enorme a tutti voi della famiglia rockfamily.it, anzi long live rockfamily.it. grazie a tutti e buona serata.